pone dentro. No, non sento, non sento più il divertimento. No, non sento, non sento più il piacere dentro. E allora no, io non sento più niente. Sono lontani quei momenti quando c'era solo sentimenti. Ogni sensazione che io vivevo, ogni emozione la prendevo. Ogni cosa mi sembrava, mi bastava la chitarra. E adesso sono qui, sono qui a pensare se devo solo aspettare che tutto il mondo mi crolli addosso, oppure mi do la scossa, oppure non mi resta che... No, non sento, non sento più il fuoco dentro. No, non sento, non sento più il brivido dentro. No, non sento, non sento più quel sentimento lento. No, non sento, non sento più l'emozione dentro. No, no, non sento, non sento più il divertimento. No, non sento più il piacere dentro. Oh yeah, yeah. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh.